quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagni. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna.